radure. Dirette streaming dagli eventi che colorano il tessuto multiculturale della Campania. Quello che si vuole mettere in campo questa sera con il premio Amico dei Popoli, voluto fortemente dall'Ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi di Salerno Campania Acerno, e che è il frutto di una collaborazione stretta. La scelta del posto non è casuale, perché la stazione marittima di Salerno si trova proprio su quella linea di confine tra la terra e il mare. Quotidianamente avvengono partenze, arrivi, qui il mondo inizia e finisce al tempo stesso, e questa sera scopriremo che proprio lì dove c'è un inizio e c'è una fine avviene un intreccio, una contaminazione, e si diventa uniti nella diversità. E questa la traccia che poi ci porterà a scoprire i colori, le forme, le geometrie, e siamo convinti che Zahid avrebbe decisamente apprezzato questa iniziativa. Io chiamo subito Antonio Bonifacio, direttore dell'Ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi di Salerno Campania Acerno, per un saluto. Indietreggio così tutti riescono a seguirci e a vederci. Tanto lavoro, un lavoro frutto anche di una collaborazione, uno staff straordinario, in tanti avete lavorato per realizzare questo gran galà che rientra nel progetto della Festa dei Popoli, che ormai è un appuntamento tradizionale che si tiene a Salerno. Sì, ecco, benvenuti a tutti, è un piacere avervi qui, perché ecco, da 11 anni stiamo sperimentando la bellezza dello stare insieme, la bellezza del conoscersi, dell'incontrarsi e del camminare insieme. Infatti una parola a noi molto cara e che ormai usiamo da diverso tempo è la parola interazione. Perché ormai ecco, siamo qui insieme, ci conosciamo, camminiamo insieme ed insieme vogliamo interagire per questa società in cui viviamo. Ecco, non è più qualcuno che arriva e deve adattarsi o integrarsi, ma siamo tutti insieme che possiamo vivere questo tempo, vivere questo territorio e dare il nostro impulso positivo. Il periodo è particolarmente complesso, non possiamo nascondercelo. Questa esperienza e questo stare insieme mira proprio a dare testimonianza che la ricchezza è dovuta dalla diversità. La ricchezza è dovuta dallo stare insieme, uniti nella diversità. E quindi ecco, questa tappa di questa sera è la preparazione poi alla futura Festa dei Popoli. Una parola, mi preme dirlo, di ringraziamento alle comunità. Lo dico sempre, noi non siamo e non sono associazioni che fanno teatro, cinema, no. Sono lavoratori, persone che lavorano, persone che però la sera e nei giorni festivi si dedicano a preparare questo stare insieme. Quindi veramente un grazie a loro per l'impegno che mostrano ormai da 11 anni e speriamo che prosegua. Buonasera a tutti e buona continuazione. Grazie ad Antonio Bonifacio e iniziamo subito a raccontarvi uno spaccato di mondo con la Polonia. Dello Stato della Polonia. La Fondazione Migrantes ha Ecco, sentite gli applausi perché il video è terminato. E Concita De Luca sta presentando il Gran Galà dei Popoli, che arriva dopo 11 anni della Festa dei Popoli a Salerno, ed è una festa che annuncia la Festa dei Popoli, che ci sarà poi come di consueto a giugno. Stanno sfilando adesso dei costumi tipici della Polonia, con una musica tipica che ogni associazione del Forum dei Popoli ha scelto. Stanno sfilando dei vestiti bellissimi, non avete idea del calore che la gente sta dimostrando, e è un'atmosfera bellissima, estremamente colorata. E variegata. Tra l'altro siamo qui in questo bellissimo spazio, architettonicamente molto suggestivo, e le persone sono semplicemente incontenibili, quindi sono partiti gli applausi e il format sarà questo di fatto della serata. Ogni associazione farà partire, presenterà un video di... Ecco di nuovo la parola a Concita De Luca. Devo dire coloratissima. Ecco, siamo d'accordo su questo. Lascio la parola a lei e rientriamo in linea. Accanto a me. E rientriamo in linea subito dopo. Hanno aperto e l'emozione era tanta. Secondo me un applauso in più ci vuole. Adesso dobbiamo dare il premio, quindi chiamo, e anche qui c'è una scelta ben precisa. Di solito quando vengono chiamati degli ospiti si utilizza il nome e il cognome, nel caso delle comunità c'è la scelta di volerli chiamare semplicemente per nome, perché quando si è amici si utilizza il nome. Siamo amici quando chiamo il mio amico Paolo, Antonio, Marco, Anna, Maria, e in questo momento quindi chiamiamo l'amica Anna per la Polonia, che ci dà anche un po' un'idea di quanti siete e come l'accoglienza qui su Salerno e anche un po' il rapporto con questa larga comunità composta anche dall'ufficio Migrantes che mi ha travolti nell'organizzazione. Buonasera a tutti, a nome di tutta la nostra comunità saluto tutti quanti, grazie per la presenza. Noi la comunità polacca siamo qui da tanto tempo, dagli anni 80, siamo una comunità pioniera dell'Europa dell'Est e ormai abbiamo trovato una famiglia qua insieme alle altre comunità. Da anni ormai proseguiamo questo cammino bellissimo, ormai non immaginiamo di poterlo fare da soli, quindi grazie veramente a tutti, all'organizzazione della Festa dei Popoli, a tutti gli amici, a tutte le comunità. E la nostra comunità promuove tante iniziative insieme all'Associazione Italo-Polacca, volta a promuovere la nostra cultura, lingua, tradizioni, tutto quello per favorire la tolleranza, per fare di tutto a non consentire la discriminazione e intolleranza a essere presenti qui a Salerno, che è una città assolutamente accogliente, e volevo sottolineare proprio questo. E la nostra città, ci sentiamo parte di Salerno, siamo salernitani tutti quanti. E i bambini che avete visto oggi sono alunni della scuola di lingua e cultura polacca che è stata promossa dall'associazione italo-polacca qui a Salerno e quindi abbiamo anche le seconde e anche le terze generazioni qui a Salerno. Quindi, grazie ancora, grazie Salerno e ai popoli. E per la consegna del premio Amico dei Popoli chiamiamo Eva. Il riconoscimento viene dato al professore Alfonso Gambardella. Allora, abbiamo ripreso la linea al microfono. Io sono Giulia Scalona e ai suoni c'è Antonio Cortazzo, vicino a me Michele Piastrella. Ora è il turno della Georgia, come avrete capito, quindi il format è questo: un video di presentazione del paese, della comunità, che mostra le bellezze di ogni paese. Vi assicuro che sono dei video splendidi, verrebbe voglia di prendere una valigia e fare solo un biglietto di sola andata in ognuno di questi paesi. E è iniziato, come avete ascoltato, la comunità della Polonia, che è una delle più radicate qui nel territorio già dagli anni 80, e hanno premiato il professor Alfonso Gambardella come per il loro premio Amico dei Popoli. Finito il video, quindi sfileranno adesso i costumi tipici della Georgia. Dopodiché verrà nominato la persona che riceverà il premio Amico dei Popoli. Qui di fronte a noi siamo in un assolutamente molto scenografico e suggestivo carrello dei bagagli, molto colorato. Ecco che sono iniziati a sfilare i vestiti della festa. Della festa, perché alla musica di sottofondo vengono accompagnati dei passi accennati, dei passi di danza. Come diceva Concita De Luca prima, i tempi sono molto stretti perché le comunità sono tante e sono anche tante le cose da dire, ma sarebbe davvero interessantissimo soffermarsi sui singoli dettagli di ogni costume, che vi assicuro sono incredibili, sono bellissimi e che sicuramente fanno riferimento ad occasioni diverse. Questi sono i vestiti di un matrimonio adesso, di una sposa e di uno sposo. I passi di danza possono essere solo accennati per questioni proprio di tempistica, e si va dai costumi più ricchi a quelli della tradizione più popolare. Che le comunità hanno realizzato e portato qui al Gran Galà dei Popoli. Bellissimi, sono tre costumi diversi, appunto, da festa, della tradizione contadina. Ed ecco di nuovo la parola a Concita De Luca per la premiazione dell'Amico dei Popoli. E anche per Elisa adesso abbiamo un'occasione per presentare la comunità e descrivere appunto anche il rapporto con la città di Salerno. Buonasera a tutti, e prima cosa io voglio presentare la mia terra, un paese antichissimo, appunto la Via della Seta, talmente antico da aver conservato il proprio alfabeto da oltre 2000 anni. La Georgia, nella sua storia e millenaria, è stata sempre invasa e immessa nella dura Roma. Ha dovuto combattere con imperi potentissimi vicino a lei: i Romani, i Persiani, Arabi, Mongoli, Turchi e Russi. Ma come una araba fenice è sempre risorta della sua cenere ed è riuscita a portare nel XXI secolo la sua arte, storia, lingua e opera. Complimenti, perché ha fatto uno sforzo straordinario. La lettura poi non è semplice. Adesso passiamo alla consegna del premio Amico dei Popoli. La Georgia sceglie come amico, simbolicamente siamo tutti amici nel caso specifico di questa sera, i missionari saveriani. Viene invitato un referente dei missionari saveriani a conquistare questa meravigliosa luce azzurra, così come il mare che lambisce il porto qui con la stazione marittima Zadid, per ricevere il premio Amico dei Popoli, che è stato voluto dalla Georgia. Passiamo alla consegna del premio per i fotografi. E vi ringrazio, padre, per l'ospitalità che ci avete sempre riservato e per la amicizia. Una battuta, padre? A nome del padre Saveriani, ecco, vi ringraziamo per essere venuti questa sera, per aver iniziato questo bel cammino. Mi è piaciuta l'introduzione che avete fatto voi, come posto, cioè questo è il confine, no? tra la terra anche il mare, l'inizio e la fine della nostra vita, e quindi l'accoglienza, la partenza, anche l'arrivo. Noi Saveriani, noi promuoviamo sempre questo incontro tra i popoli. Spero che questo incontro, questa attività sia davvero una cosa che promuove ancora alle altre gente di aprirsi agli altri. Grazie mille. Grazie. Grazie alla Georgia. E adesso voliamo in Tunisia. Della Tunisia. E sono appena stati premiati i missionari saveriani come amici dei popoli. Nel loro DNA, nel loro ordine, la missione nei paesi lontani e l'accoglienza a chi arriva da paesi lontani è qualcosa di imprescindibile e fondante la loro pratica quotidiana. E ora sono partite le bellissime, splendide immagini della Tunisia. L'atmosfera qui è di festa, non saprei che altro termine utilizzare se non questo. È una festa perché ci sono bambini e anziani, persone di tutte le età, e adesso, visto il grande numero di persone che stanno partecipando, ci sono persone sedute un po' ovunque nella grande sala in cui si sta proponendo la sfilata. Ora arriveranno i costumi della Tunisia appena parte la musica, e sono certo che ne resteremo meravigliati. È una fatica immane riuscire a trasferirvi la particolarità di quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi, e non sono sicuro di saper usare le parole così bene per dare il giusto valore a quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi, ma lo sforzo andava fatto e stiamo cercando di farlo anche per chi ci ascolta. Anche qui ci sono vestiti molto colorati e delle diverse occasioni. Dopo ci impegneremo per raggiungere almeno un rappresentante delle associazioni qui, da dove adesso la nostra postazione. Siamo un po' fuori per non disturbare la manifestazione, ma cercheremo di intercettare le comunità per qualche commento. Ecco che una volta sfilati i costumi, gli abiti della Tunisia, De Luca, e adesso ritorna al microfono Dora per la premiazione Amico dei Popoli. A noi le persone emozionate piacciono. Altro applauso, quando c'è l'emozione c'è sempre un applauso. Ringraziamo chi ha fortemente voluto questa serata, l'ufficio diocesano Ubiates e la Chiesa. settimana della Festa dei Popoli, unitamente ai partner che hanno collaborato a questo evento. Ringraziamo i nostri ospiti per averci onorato con la loro presenza, la console Maria Abdelbeki e lo staff del consolato, il signor Hassan Elhemi, responsabile del Sanpere Sociale, i professori dell'Università di Salerno, Gianfranco Macri, Alfonso Conte, Donato Di Sanso, l'ingegnere Angelo Mammone, referente Libera Battipaglia. Chiamo sul palco per consegnare il riconoscimento il presidente della comunità musulmana battipagliese, Hedi Mohamed Khadrawi. Leggo la motivazione. Per aver facilitato le modalità di relazione tra i cittadini tunisini e loro istituzioni, per il suo impegno quotidiano di promuovere e avvicinare gli scambi culturali tra l'Italia e la Tunisia, per aver riunito dopo tanti anni sotto un'unica bandiera tutta la diaspora tunisina in Campania. Il nostro riconoscimento e il nostro sentito ringraziamento alla console della Tunisia in Italia, Maria Abdelbeki. Consegniamo il riconoscimento. Buonasera. Un ringraziamento a tutti voi da parte delle nostre sorelle e dei nostri fratelli, da parte di tutti i musulmani per questo periodo di Ramadan. Veramente ringraziamo all'organizzatore di questo incontro che ci fa avvicinare, che ci fa diventare più vicini. Un ringraziamento a tutti voi dalla parte della nostra patria, la Tunisia, che sta rinascendo. Molto passo con. Ciao. Buonasera, assalamu alaikum. Sono molto contenta, felice di essere qua a Salerno tra gli italiani, i salernitani, anche tutte queste comunità straniere. Io non amo questa parola straniere, perché siamo tutti sorelle e fratelli, siamo mediterranei. Ringrazio tanto gli organizzatori, ringrazio la comunità tunisina a Salerno. Sono molto commossa perché non sapevo. E loro sanno che sono a disposizione, sono disponibile per loro, per tutto, per la loro difficoltà, il loro contentamento, diciamo così, in italiano. Grazie a tutti. Grazie al console della Tunisia, ringraziamo la delegazione e siamo pronti ad ospitare il momento dedicato al Marocco. Ecco il video, un momento di grande emozione nella comunità della Tunisia con la presenza del console. Come avete ascoltato, c'è chi ha difficoltà ad utilizzare la parola straniero, e in un contesto del genere sembra davvero una parola priva di significato, e speriamo di poterla utilizzare come termine, come pretesto di riflessione, come spunto di riflessione, perché qui sono presenti cittadini, persone che vanno anche ben oltre il Mediterraneo, e questo questo grande mare che unisce e non divide. E quindi sì, c'è una grande difficoltà ad utilizzare la parola straniero. Al gran gara dei popoli sarebbe più giusto utilizzare quella di amico dei popoli, non a caso il premio a questa dicitura. Per ognuna di queste comunità chiaramente gli spunti di riflessione, anche con accenni alla storia contemporanea, a quello che sta succedendo, porterebbe ad approfondire ognuno di queste singole comunità, cosa che intendiamo fare assolutamente con la collaborazione della Fondazione Migrantes in puntate dedicate per ognuna delle singole comunità presenti qui, anche in vista del grande evento della Festa dei Popoli. Ecco la sfilata dei costumi del Marocco, con delle tinte di rosso, di blu e di bianco che disegnano non solo corpi ma anche storie. L'aspetto più sconvolgente finora è stato quello di quello di rendersi conto di quanto ogni singola comunità e ogni singolo paese abbia come ricchezza, e che è il risultato dei video bellissimi che annunciano ogni paese, così come i bellissimi costumi che stanno sfilando, fanno perdere di significato ogni etichetta. Ogni luogo comune e si apre l'immensità della cultura di ogni comunità. Ovviamente la comunità del Marocco, come potete sentire, è una delle più numerose della provincia di Salerno, con una storia ben radicata nel territorio, e quindi il grado di coinvolgimento è molto molto alto da parte delle persone qui, che hanno iniziato a battere le mani, stanno sfilando le coppie. E ora si stanno presentando con un unico blocco unito nelle singole regioni del Marocco. Torna al microfono Concita De Luca. Marocco. Ragazzi, venite qua. Ormai abbiamo cambiato un po' tutto rispetto alla scaletta, rispetto all'organizzazione, ma come si fanno ad averle con noi? E chiediamo a Sara, la quale devo consegnare un fogliettino, a lei il compito di presentare la comunità del Marocco. Allora, il benvenuto della comunità marocchina ai sindaci, alle autorità consolari, al mondo dell'associazionismo, all'università e intervenuti qui questa sera. Il nostro ringraziamento all'Ufficio Diocesano Migrantes e alla Consulta della Festa dei Popoli per aver organizzato questo importante momento di incontro e scambio. Ringraziamo i nostri ospiti per averci onorato la loro presenza, il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, la presidente del Consiglio della città di Bellizzi, Antonella Capaldo, e la presidente del Consorzio Larale e tutti i responsabili degli uffici. Per la consegna del premio Amico dei Popoli abbiamo Bahia. Siamo sempre emozionati, non c'è niente da fare. Buonasera a tutti. Allora, per avere supportato, incoraggiato e assistito la comunità marocchina della città ed avere aperto le porte della casa comunale a tutti noi, senza distinzioni di sorta, facendoci sentire a casa, contribuendo così alla nascita di una società migliore, aperta, coesa e plurale, dove il bene comunale dimora sotto tante bandiere, lingue e religioni diverse. Il nostro conoscimento va al sindaco Domenico Volpe e alla presidente Antonella Capardo. Abbiamo due amici dei popoli. Consegniamo il riconoscimento. Ci mettiamo a favore dei fotografi, al centro, così li possono vedere tutti. Allora, vengo io accanto, sindaco, un premio che, conoscendo il sindaco di Bellizzi, è un premio che traccia anche più che altro un sentire. No, nel senso che è bello questo premio, ringrazio chi ha pensato e ha voluto riconoscerlo a me, ma alla mia comunità. Devo dire la verità, non mi piace essere, posso dire, diverso, vorrei che tutte le comunità, come la mia, lo dico senza presunzione perché loro sono testimoni, abbiano le porte aperte dove effettivamente la diversità è una ricchezza. Dico Volpe, io vorrei anche sentire Antonella Capaldo su questo, tra l'altro sempre attenta, in particolare poi quando si tratta dei giovani, Antonella Capaldo c'è sempre. Beh, Lucida, in una società in cui, in epoca in cui si gioca a distruggere i diritti fondamentali dell'individuo, esiste una società che reagisce ed è quella società sana, permettetemi, colta, che guarda al futuro, perché il futuro è contaminazione, è integrazione, è unità, per cui io sono onorata e con molto orgoglio faccio mal tipo di far parte di questa comunità. Grazie Antonella Capaldo. Diamo foto velocemente perché dobbiamo rispettare i tempi di scaletta, perché sono già pronti, li vedo lungo lo scivolo. E adesso dal Marocco andiamo in India. Eccoci, allora, il futuro è contaminazione, è il turno dell'India, premiato il sindaco di Bellizzi, un amministratore che la comunità ha riconosciuto essere vicino ai valori dell'inclusione. E parole assolutamente condivisibili, una visione di futuro complessa, fatta di mescolanza, fatta di ricchezza. A vedere le immagini dei video e i vestiti che stanno sfilando stasera, non riesco neanche a immaginare come si possa pensare altrimenti, come si possa dire che non sia così. La Rada chiamata in causa per la comunità del Marocco, perché alcune delle persone che erano sul palco nella sfilata sono attive nei percorsi di accoglienza del consorzio La Rada, di cui anche noi facciamo parte chiaramente. Questo è motivo di orgoglio anche per noi, ci sentiamo minimamente chiamati in causa e il cuore si riempie di gioia. E ora, come potete sentire nella multiforme e nella grande varietà dell'India, è stata scelta una musica contemporanea. Stanno sfilando delle ragazze anche molto giovani con dei vestiti coloratissimi. i vestiti della, di nuovo con la festa, ecco, sicuramente quello, i vestiti brillano nelle loro faccettature oro, nei colori, nelle tinte definite di rosso e di arancio, e brillano. Ecco che ora sfilano tutte assieme. Come sentivate da Concita De Luca, la scaletta è strettissima per dare il giusto spazio, il giusto momento di attenzione a tutte quante le comunità, senza penalizzare nessuno. In una serata così complessa è molto facile accumulare anche piccoli ritardi. E ora è il momento della premiazione, la parola al palco. Siamo in onda, ci ha raggiunto qui Sara della comunità del Marocco di Bellizzi e vogliamo chiederti, Sara, come sta andando stasera e se sta andando secondo i vostri piani. Assolutamente, stasera è una serata bella, ricca, piena di colori, piena di persone importanti e persone comuni, ecco, che si sono riunite oggi qui per celebrare una festa a colori, possiamo definirla così. E per adesso sta andando molto bene, ci piace, abbiamo appena dato il nostro riconoscimento al sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, il quale la comunità marocchina ha visto nella comunità di Bellizzi una grande apertura nei nostri confronti, nei confronti di, ecco, del diverso. Sì, la parola a colori e la bellezza della serata è proprio questo, lo stiamo dicendo dall'inizio, da quando è iniziata la serata. Per cui Sara, io ti ringrazio, mi immagino che avrete sicuramente tante cose da fare e non vogliamo rovinarti la serata per tenerti qua, e grazie infinite, ci vediamo sicuramente presto, ciao, buona continuazione. Ora, eccomi qua, ho appena scavalcato il carrello dei bagagli e quindi mi sento ancora giovane. Serate del genere evidentemente fanno bene allo spirito e all'anima. Adesso c'è West Africa, quindi un insieme di video molto più ampia nella sua rappresentazione. E i paesaggi che stanno scorrendo sulle immagini sono di paradisi terrestri, natura a perdita d'occhio e tantissimo verde, un mare come si può solo sognare. Salta all'occhio in questi video, sono di una bellezza disarmante, anche perché forse al loro interno racchiudono tante contraddizioni, tante domande e lasciano un po' un senso di smarrimento, perché davanti a tanta bellezza a volte si accompagnano anche immagini molto tristi che magari sappiamo da racconti di chi è arrivato qui, o di condizioni non sempre facili di vita, e questo fa male guardando quanta bellezza esiste in questi popoli. Ecco che è iniziata la sfilata dei costumi del West Africa. Alle nostre spalle c'è il set fotografico dove si sta facendo la documentazione dei costumi che mano a mano sfilano, e adesso proviamo a spostarci per andare a intercettare gli altri protagonisti, le voci che hanno animato la serata stasera. L'altro fenomeno a cui assistiamo è che in questo arcobaleno di colori anche i suoni sono fondamentali e riescono a creare una scenografia effimera ma determinante nel collocare anche nell'immaginario di chi guarda le persone che stanno sfilando. Costumi coloratissimi dell'Africa, tinte nette, tagli di capelli e altezze diverse, lunghezze diverse, le tuniche, le maglie della festa con dei bellissimi celesti e tinte floreali. Ci ha raggiunto la nostra amica Bahia, che ha sfilato, e ora lasciamo la parola a Concita De Luca per la premiazione Amico dei Popoli del West Africa. Qui con me tutti i ragazzi, referente della comunità del West Africa, Serena. Il premio va a Anthony Cardano. al centro per la consegna del premio, tutti insieme. Io vi ringrazio, ovviamente non ho preparato questo discorso, questo è ovvio, però te l'ho preparato perché credo che questa poi sia la normalità, cioè, per noi che siamo qui non c'è nulla di eccezionale, anzi, e invito, devono essere sempre più le persone che ragionano come noi, questo non è nulla di eccezionale. Grazie ad Anthony Carrano e grazie a tutti voi. Siamo pronti per fare un ulteriore cambio che però ci richiede un momento di pausa rispetto al nostro viaggio. Del resto, come sempre, anche quando si viaggia ci si ferma un attimo perché bisogna anche far decantare quanto visto fino a quel momento. E adesso abbiamo un ospite. Io chiamerei Antonio Bonifacio qui accanto a me perché per la prima edizione del premio Amico dei Popoli abbiamo come ospite Alfonso De Chiara del gruppo musicale Levia, che chiamo qui con noi perché allora dovrebbero essere in due in rappresentanza di Levia. La musica è sicuramente un elemento di contatto, attraverso la musica le persone si incontrano, condividono progetti, condividono sogni e Levia attraverso la loro musica ci hanno fatto anche sognare tanto e lo fanno ancora, un progetto sempre nuovo che riesce anche a cambiare pelle di volta in volta. Salve, buonasera, per noi è un onore essere qui, sono anche un po' imbarazzato perché è bellissimo confrontarsi con tante realtà che magari uno immagina soltanto, però poi vedendole fisicamente è una cosa bellissima. Noi siamo qui perché abbiamo fatto un video, anzi una canzone prima, che si chiama L'elicottero in silenzio, ed è una canzone che diciamo, sta facendo parlare un po' di sé. Ad accompagnare la canzone c'è stato un video che abbiamo girato insieme all'aiuto di Antonio e delle comunità. Infatti ho visto qualcuno degli attori che ci ha dato una mano in questo videoclip. L'elicottero in silenzio parla un po' del problema dei migranti e dello sbarco dei migranti nelle nostre coste, visto da un punto di vista identico per quello di un pilota elicotterista. Noi abbiamo voluto fortemente, e Antonio prima di utilizzato la parola interazione, interagire con le comunità di Salerno per girare il video. E il video ci ha permesso di vincere anche dei premi e di portare la canzone in giro per l'Italia, perché abbiamo vinto il premio di André, il premio Botteghe d'Autore. Per noi è importante, non in quanto stiamo vincendo i premi, la canzone sta vincendo i premi, in quanto la canzone sta riuscendo a girare il più possibile in Italia a portare un messaggio con dell'integrazione importante, un po' il lavoro che stanno facendo loro. Quindi niente, siamo contentissimi di essere qui. Grazie. Grazie Alevia. Sì, allora, noi ci teniamo che ascoltiate con tantissima attenzione il testo di questa canzone, perché ecco, noi siamo qui, siamo delle comunità, siamo insieme, ma non dimentichiamo chi è in partenza o chi è in arrivo o chi sta viaggiando. E questa canzone, ecco, ci siamo ritrovati con le emozioni ma anche con i racconti di tanti amici, quindi ecco perché abbiamo voluto la loro presenza, soprattutto premiati, perché con l'arte, la musica, possiamo migliorare sicuramente la nostra società. L'elicottero nel silenzio. Vediamo e ascoltiamo. Il tramonto è una minaccia, è un'altra notte come questa, non la reggo più, il paese è alla mia faccia, mentre taglio il sud. L'orizzonte sembra un velo, ed il cielo è un gigante che si stende sull'Europa, la carezza di un amante. L'elicottero e il silenzio, chiaramente sopra il mare l'eco non ci sta. Sono io che invento il vento e il tempo che verrà. Come in mare così in terra e così sia. Non mi pare di volare dolcemente sopra il mare, ma su un mostro scuro senza carità. E assisto a un altro sacrificio che decidono d'ufficio al ministero della disumanità. Ma fin tanto che sorvolo mi conforto che son solo a digerire tutta questa crudeltà. Quando poi atterro a letto, certamente non m'aspetto di dormire. Il mare è un muro, il mare è un fosso, sembra un cielo alla rovescia visto da quassù. Poveri angeli, ripeto spesso, poi non ci penso più. Denti bianchi come stelle, tra la schiuma e la speranza, a ciascuno il proprio Dio, ma qui ci sono io. Questo maledetto mare, mentre mi domando chi perdonerà questi abbracci senza stretta, questa pelle mai più asciutta, dimmi chi ci salverà. Finché il mare avrà il coraggio di fermare questo viaggio, ci risparmierà con questa cortesia di scoprirci più sicuri nella nostra ipocrisia. Il tramonto è una minaccia, un'altra notte come questa non la reggo più. E per quanto realmente già avvenuta, o meglio di fatto già avvenuta, consegniamo il premio Amico dei Popoli a Elevia. Grazie. Riprendiamo le nostre valigie, quelle che sono state posizionate sui rulli e che appunto ci danno l'idea del viaggio. Quando si viaggia si prepara sempre una valigia, all'interno di una valigia si mettono degli abiti. Gli abiti sono la nostra pelle che cambia continuamente e gli abiti ci raccontano i nostri stati d'animo. Scegliamo il bianco quando magari vogliamo essere solari, aperti. Per le donne scegliamo un colore scuro quando la sera di gran gala come questa sera. E gli abiti con il premio Amico dei Popoli ci stanno raccontando un percorso fatto di colori. E adesso scopriamo quali sono i colori della Romania. Eccoci, allora il turno della Romania, partirà il video e al termine del video i vestiti. Ci ha raggiunto qui, abbiamo strappato alla festa Bahia della comunità del Marocco di Bellizzi. Qui volevo fare una domanda, Bahia, per una festa così splendida, c'è un'atmosfera incredibile. Quanto è stato duro il lavoro di organizzazione, tutto quello che c'è dietro, come è stato possibile realizzarlo? C'è, dietro qualsiasi lavoro c'è di persone che lavorano duro. Noi abbiamo la fortuna che abbiamo l'ufficio Migrantes che ci ha dato, ci sta dando e darà sempre una mano forte. Che loro ci occupano dell'organizzazione. Noi abbiamo cercato di fare una volta ogni 15 giorni, 20 giorni riunioni in cui abbiamo deciso il tema, come è stato fatto, se facciamo la sfilata o no, come viene fatta. Abbiamo scelto le canzoni, poi le abbiamo mandate, abbiamo cercato di fare i video insieme, abbiamo fatto un grande lavoro. E alla fine loro ci hanno occupato del resto, e noi abbiamo lavorato dopo ogni comunità da parte, per scegliere le persone, i vestiti, il colore, e tutto questo che avete vissuto. E i video hanno tutti lo stesso format, sono splendidi. Verrebbe, dicevo prima, prendere la valigia e andare subito adesso lì, in uno di questi posti in tutti questi posti meravigliosi. La realizzazione dei vestiti è stata affidata a chi? Ogni comunità come ha lavorato, perché ci sono dei vestiti incredibili. E com'è, da dove saltano fuori? questo è bello. No, ogni individuo, ogni persona ha cercato di scegliere il più bello che ha, così per condividere. E anche questo è il nostro obiettivo, di farvi sentire che la differenza non può togliere niente, ma soltanto arricchisci, e portarti con noi in estate. Fate valigie, biglietti e andiamo a visitare qualche paese. Sì, penso già l'ordine di apparizione della serata sarebbe un buon suggerimento per farlo per i prossimi anni. Facciamo a posto queste feste, facciamo a posto per farvi conoscere chi siamo e cosa ci teniamo noi, e anche per farvi capire anche la nostra. Noi con la nostra cultura abbiamo aggiunto anche la vostra, e ci ha dato una cosa più bella. Tenere due culture è una ricchezza veramente ampia, che io lo auguro a tutte le persone, perché veramente arricchisce e apre la mente. Beh, la cultura si costruisce, quindi avere più ingredienti fa sicuramente un piatto più ricco, più facile anche da far condividere con gli amici che ci sono qui stasera. I vestiti in particolare, quindi, sono per alcune comunità sono state scelte con significati, sì, diversi, anche con momenti diversi. Cioè sono stati vestiti di matrimonio, abbiamo visto vestiti più legati magari a momenti di vita quotidiana. Sì. Noi come comunità, sì, sono tutti, la comunità marocchina, sono tipi di vestiti che noi mettiamo in tutti gli eventi di felicità, sarebbe matrimonio, battesimo, noi diciamo sbu', non è battesimo, e vari eventi che sono importanti. E così hanno lavorato le diverse comunità. Passiamo la parola a Concita De Luca, di nuovo al microfono sul palco, per la comunità della Romania. Buonasera a tutti, ringraziamo prima gli organizzatori per questa serata meravigliosa. Voglio dire che la comunità romena è la più numerosa della provincia di Salerno dell'Italia. Secondo i stati sono circa più di 16.000 di romeni residenti. Sono tutti contenti, si sentono a casa, anche perché le origini sono comuni, sono latine. Ringraziamo a Salerno, perché la Salerno lo possiamo nominare la città dei popoli, anche il cuore della campagna. Se è nato il capoluogo della campagna, sicuramente Salerno è il cuore della campagna. Ringraziamo a tutti. E chiamiamo Florin per conoscere chi è l'amico dei popoli. Buonasera a tutti, vi ringraziamo a tutti i popoli che siete venuti, e più di tutto ringraziamo l'Italia, il popolo italiano che mi ha accolto con le braccia aperte, con i sorrisi e con una grande amicizia. Questo ringraziamento stasera verrà dato a Kip Migrantes in persona di Vincenzo Agostino. Premio Amico dei Popoli all'Ufficio Migrantes dell'Arcidiocesi di Salerno Campania Cerno. Vincenzo per tutti. Grazie alla Romania, e ci spostiamo nelle Filippine. Eccoci rientrati dopo il momento di pausa con la bellissima canzone L'elicottero degli Eledia. Straordinario anche il videoclip musicale, che vi invitiamo a cercare su YouTube. Dopo il turno della Romania si fa un salto nelle Filippine. Qui da padrona fanno nel video le immagini degli splendidi tramonti sul mare, il colore cristallino dell'acqua. E le persone iniziano chiaramente ad accennare passi di danza tra il pubblico, perché c'è la necessità di questa cassa dritta che ci abbraccia. E ora i costumi. La parola più gettonata, come avete sentito stasera, è colori, colore. Ecco, arrivano le Filippine. Con la bandiera nazionale. Ecco che ci hanno raggiunto anche gli Eledia dopo il ritiro del premio, dopo aver ritirato il premio. E oltre al premio qui, il vostro brano è stato scelto, è stato rappresentativo anche dalle comunità. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare alcuni rappresentanti delle comunità prima e ci hanno mostrato il videoclip in anteprima. Come è stato possibile? Qual è stato il punto di incontro anche per la realizzazione del videoclip? Allora, nel videoclip noi volevamo semplicemente rappresentare un po' quello che era il punto di vista di una persona anche comune, se vogliamo, perché in realtà parla di un elicotterista, però in realtà siamo ognuno di noi che siamo nei suoi panni a guardare le cose che succedono a mare e non poter intervenire. Quindi abbiamo pensato che l'unico modo per rappresentare questa cosa fosse quello di coinvolgere le comunità di Salerno, che hanno per l'appunto mostrato poi erano felicissime di intervenire e abbiamo rappresentato le loro mani semplicemente con dei colori, come se lasciassero dei segni sul corpo dell'elicotterista. Niente, il video è stato girato in brevissimo tempo perché noi eravamo finalisti del premio De André e avevamo bisogno di questo video. Con il conforto di Antonio Bonifacio, il direttore dell'ufficio Migrantes, ci siamo dati da fare, abbiamo coinvolto quante più persone possibili. E niente, è stata una bella esperienza che ci sta portando in giro un po' per l'Italia. Abbiamo vinto il premio De André, il premio Botteghe d'Autore a Castelcivite, adesso siamo anche altri premi, però adesso non li dico per non sbilanciarmi, però siamo in giro con questo pezzo che sta dando tante soddisfazioni ed è importante per noi in questo momento storico portare un pezzo come questo per il messaggio di integrazione e di apertura che vuole portare. Sui tanti premi vi ha anticipato la seconda domanda, però credo che sia appunto un segnale positivo che non soltanto la splendida musica, ma come dicevano prima dal palco, l'importanza anche del testo. Sì. In questo momento storico dove magari non sempre ci si sente rappresentati dalle parole che vengono ascoltate, sì, in luoghi pubblici, sui social, dove magari c'è poco spazio per la riflessione e quel poco spazio che si vede appunto magari non rappresenta il nostro stato d'animo. La cosa che mi colpisce e che mi rincuora è che la poesia ancora e la musica hanno ancora il loro, sì, peso, il loro valore e la loro forza nel poter dare sostegno ai sentimenti più intimi delle persone. A sostegno di quello che stai dicendo, devo dire che il premio De André che abbiamo vinto in realtà è collegato a Repubblica.it, quindi il video è risultato il più cliccato fra 12 videoclip, diciamo, che sono stati per un periodo e ancora tuttora stanno su Repubblica. Quindi questo che dice è importante, perché il successo del pezzo è stato proprio quello delle persone che l'hanno voluto vedere, che l'hanno rimbalzato un po' nel web. Quindi per noi questa cosa è fondamentale, perché magari arriviamo dove, laddove non riesce ad arrivare la politica, il linguaggio della politica, il linguaggio delle cose che si sentono normalmente per televisione, e la forza dell'arte e della musica proprio in quello sta. La forza dell'arte è infilarsi nelle crepe dove serve, riesce a trovare i canali di luce giusti. Io vi auguro di proseguire ancora con la stessa forza e determinazione, e grazie a voi per la presenza e per il vostro lavoro, e lasciamo la parola al palco alla comunità delle Filippine. E adesso il riconoscimento da parte delle Filippine a Lisa Catedrilla. Buonasera a tutti, ringrazio del cuore questa festa meravigliosa e ringrazio tutti l'organizzatore che ha pensato a questo programma. Anche a Roma sappiamo anche come questo è stato il cuore, però questo come il cuore della Opoli di Salerno è bellissimo, questo porto che ho visto stasera, che simboli di tutti i colori dell'Italia. Questa opportunità è una grande occasione per l'integrazione per tutti noi stranieri in Italia. Grazie Italia per l'accoglienza e buona sorrisi e il lavoro che hai dato per tutti. Grazie molto. E colgo anche l'occasione di invitarla anche noi, 6 giugno, abbiamo anche la giornata di migranti, artisti migranti in Italia. Tutti voi siete invitati nella categoria di tutti gli artisti, della danza, della cantante, della scrittori, tutti quanti gli artisti. Potete dare la raccomandazione e nomination a Presidente Nanzi qui a Salerno. Grazie. Grazie. Consegniamo il premio a Lisa Catedrilla. Foto. E adesso cambio. Grazie, grazie alla comunità delle Filippine e siamo pronti ad accogliere il Venezuela. Eccoci, il suono del Venezuela è partito, qui dietro ci stiamo cominciando ad affollare, attenzione ai cavi. Allora, siamo qui con Nicola della comunità rumena, e il primo consigliere comunale nel comune di Pertosa. Nicola, un grande riconoscimento anche sociale. Un grande messaggio di integrazione a Pertosa. Come ti stai trovando nella tua avventura? Come sta andando stasera? Allora, buonasera a tutti gli ascoltatori. Mi chiamo Samson Neculai, vengo dalla Romania, come abbiamo parlato prima. Allora, io sono in Italia da 18 anni. E nell'esperienza mia politica è una soddisfazione per me, per dare prima cosa un contributo per il paese dove sto, a essere un esempio per i cittadini comunitario, diciamo, Sono uscito proprio sulla maggioranza, il sesto sulla lista, con la delega io sono politica sociale e migrazione sul territorio. La mia soddisfazione più grande è uscita proprio dal presidente regionale, che mi ha felicitato, me l'ha detto, unico consigliere regionale nella regione Campania, rumeno della maggioranza. È una soddisfazione immensa. E poi a essere integrato, a essere in Italia, a fare le cose, quelle che fanno gli italiani, per l'inizio diventa difficile, però imparando mano a mano diventiamo anche noi quelli che siamo. Non dimentichiamo che Italia è un paese latino come Romania, nella comunità comunque ci siamo tutti insieme, che vogliamo essere insieme per fare una cosa. Noi parliamo anche del nostro presidente emigrante meridionale Antonio Bonifacio, che è stato e ci sta ancora a essere una persona molto che raccoglie tutte le comunità per stare tutti insieme, a stare le cose positive, e con la soddisfazione mia di esserci a fianco a lui e a fianco a tutta la nostra comunità per le cose che facciamo in Italia. È vero, è importantissimo, e la serata di stasera nella dimostrazione. Chiaramente, Nicola, noi siamo capitati nel momento dei ritmi del Venezuela, quindi la musica di sottofondo è da ballare. Stasera come sta andando? È un galà, una festa incredibile? Come vi siete trovati? Allora, per stasera è una sorpresa per noi, che è la prima, l'evento di questa gala dei popoli che si presenta a Salerno. Io come referente anche del comune, come rappresentante del comune, come comunità, invito anche la festa dei popoli che si terrà giugno a Salerno. Il mese di luglio, prima domenica, il 7 di luglio, è la settima volta anche a Pertosa, che ho portato tutta la nostra conoscenza, anche le grotte di Pertosa, invitando a tutti in diretta adesso. Chi viene alla festa pagherà un euro a entrata alle grotte come invito e si gode la festa, che si mangia anche la sera gratis della comitato festa, perché lì c'è il Monsignor, che è un aiuto di Monsignor De Luca Antonio, che è lui il vescovo della Teggiano Policastro. Questa è un invito e anche una soddisfazione per me di esserci qui, di fare una cosa per la nostra comunità e di stare insieme. Con questa occasione vi passo anche la mia connazionale, diciamo, Roxana Andrea Marina Pescuta, che lei è anche un consigliere, non più, era un consigliere dei giovani a Eboli. Adesso ve lo passo e vi racconta anche lei la sua esperienza di giovanile qui, cresciuta proprio da pochi mesi. Perfetto, è giovanile anche Nicola, non lo vedete, ma è giovanile anche Nicola. Buonasera. Buonasera. Nella tua esperienza anche di vicinanza con il forum, sono tante le iniziative che state mettendo in atto. Cosa si può fare muovendosi all'interno di una comunità? Ok, allora partiamo dal presupposto. Buonasera a tutti, sono Andrea Pascuta, sono stata consigliere del forum dei giovani di Eboli fino all'anno scorso. Il mandato è finito, quindi di conseguenza oggi non lo sono più. Però diciamo che per me è stata un'esperienza meravigliosa, ovviamente, perché diciamo che incontri tanti giovani, incontri tante realtà. Ovviamente incontrare giovani significa anche in un certo senso tramandare un minimo ciò che è anche la festa dei popoli, dato che io insieme a mio padre pratichiamo questo viaggio, diciamo così, da 10 anni ormai. All'inizio eravamo solo 3 persone quando iniziamo, quindi per noi ad oggi essere 10-15 persone della comunità romera vale molto, perché ad oggi è difficile integrarsi, è difficile magari raggruppare anche 10 persone, perché ovviamente un po' per il lavoro, un po' per tante problematiche proprio di zona è quasi impossibile. Però diciamo che ad oggi fare questa festa, questa gala, e riuscire a raggruppare 15 persone per noi vale veramente tanto, proprio come comunità romena. Io sono in Italia da 17 anni, quindi sono tra virgolette più italiana che romena. Non a caso quando vado in Romania mi dicono che parlo il romeno con l'accento italiano, quindi per me è stranissimo. Un disastro. No, l'italiano con l'accento italiano, ma il rumeno con l'accento italiano, quello è il problema. E questo, poi non so. Avventure e storie che si incontrano qui al Gran Galà della festa dei popoli. Noi ti verremo a disturbare sicuramente più avanti, come per Nicola, perché queste storie vanno approfondite, vanno raccontate, vanno rappresentate. E grazie a te per la disponibilità. Grazie a tutti voi, vedo che sono già pronte le nostre modelle per una notte per mostrare gli abiti dell'Ucraina. Eccoci allora con l'Ucraina, appena terminato il Venezuela, cui chiaramente dimostriamo vicinanza per la situazione politica che umana che sta affrontando. È uno di quei casi in cui dicevo nei video sono vedono delle bellezze incredibili, e la mente va anche alle contraddizioni che attraversano oggi questi paesi, quindi davvero un grande momento emozionante. E adesso chiederei a Eugenio Mastrovito, responsabile immigrazione delle ACLI di Salerno, un commento sulla serata. Per chi non è stato qui, chiaramente è difficile riuscire a immaginarsi la quantità di colori, lo splendore, la ricchezza, i sorrisi e la voglia di stare assieme che c'è qui stasera. Racchiudendolo in una frase, in un tuo commento, anche in vista dell'evento di giugno, cosa ci puoi dire? Buonasera Giulio, buonasera a tutti i radioascoltatori. Stasera siamo qui a celebrare la bellezza delle diversità. Questo è lo spirito che ci tiene insieme, e proviamo non solo a raccontarlo ma a testimoniarlo con attraverso un anno trascorso insieme, che poi sfocia in quella che sarà la festa dei popoli del prossimo 9 giugno in Piazza della Concordia a Salerno, dove appunto proveremo a ricordare tutti i passaggi, tutte le feste nazionali, tutte le feste religiose, tutti i momenti di unione che abbiamo condiviso durante quest'anno, e proviamo a celebrarlo lì in quella piazza, invitando tutta la comunità salernitana e provando a dire qualcosa di molto semplice, che insieme si può e si deve, fondamentalmente. Insieme si può, si deve, e il risultato della bellezza che si riesce ad ottenere è qui stasera ed è rappresentato dalle tante storie che stiamo intercettando adesso anche nel backstage a microfoni chiusi. Durante l'anno, anche con le comunità, quant'è lo sforzo di riuscire a tenere assieme tutti, e magari qualcosa che nella bellezza dell'evento non sempre viene rappresentato, magari, ma lo sforzo principale poi è lavorare nei territori, è lavorare nelle comunità, tra comunità anche diverse. E come si può fare questo? Qual è la strada anche nell'attuale panorama italiano? Di sicuro, come è stato detto prima, lo sforzo personale che ogni comunità ha messo in campo questa sera è notevole, pensando che insomma tutti loro sono lavoratori, sono persone che tolgono del tempo alle loro famiglie, al loro lavoro, alla loro vita, per investirlo in qualcosa di cui un giorno poi ne godremo tutti. Ed è quello lo spirito che anima queste comunità, che hanno imparato a stare insieme nei territori. Il primo lavoro è intracomunità, dove bisogna iniziare a capire come riuscire a coordinarsi, come rispettare, condividere e far fiorire le tante diversità che già nelle comunità stesse ci sono. Noi pensiamo, ecco, ad un'omogeneità spalmata su un unico paese che al suo interno raccoglie le tante diversità che ci sono in quel paese. In più tutto ciò va messo in circolo con gli amici delle altre comunità con cui si vive il territorio e con cui abbiamo bisogno di stringere le relazioni e legami forti. Non lasciando il campo in un momento politico anche così particolare, dove, ecco, parlare di inclusione, di apertura, di pluralismo sembra un attimino complesso, sembra molto impopolare, e invece ecco la parola chiave, la testimonianza, stare insieme, perché poi attraverso l'incontro con l'altro, guardare nell'altro gli occhi, si possono superare i pregiudizi, i luoghi comuni del sentito dire. Perché il mio vicino di casa è una persona per bene e quindi non fa parte di quella narrazione. Ecco perché l'incontro cambia le cose. Eugenio, io farei scolpire queste parole su tutti i condomini d'Italia. Grazie, grazie infinite e buona festa. Per accogliere l'Italia. Ecco che dopo l'Ucraina c'è il nostro paese. Il video rappresenta le grandi città d'Italia. Io in questo momento qua fatico a trattenere le risate, perché Michele Piastrella mi suggerisce che sembriamo il tavolo di una radiocronaca calcistica. In effetti è uno degli eventi radiofonicamente più complicati che ci sia mai capitato di fare, non solo qui a Radio Antenna Migrante, ma ne vale la pena, è una bella sfida che... Ecco che a proposito d'Italia e dei costumi che sfileranno, ci ha raggiunto Angelo di Libera, di Battipaglia. E Angelo, ci capita di avere la tua presenza qui proprio durante la sfilata dell'Italia, non per ironia, perché a volte Libera è attiva nei territori, fortunatamente, per dare un forte segnale di contrasto alla criminalità organizzata che spesso all'estero caratterizza le comunità italiane e ha caratterizzato fortemente anche in passato negli Stati Uniti e in tutti gli altri paesi in cui gli italiani si sono diffusi nel mondo. Qual è lo sforzo di Libera nei territori, anche in territori marginali della regione Campania, che per sentito dire, per luoghi comuni anche qui, vengono visti quasi come delle isole felici o dove certi fenomeni sono meno presenti e danneggiano meno i territori? Cosa sta succedendo? Qual è lo stato dell'arte su questo punto? Diciamo che il pensiero principale che si può esprimere sul nuovo modo di cogliere un po' il principio della legalità, il principio di Libera, è quello di voler mettersi in gioco sempre su nuovi temi, sull'attenzione al prossimo. Infatti c'è da ricordare che una delle ultime battaglie, uno degli ultimi appunti che Don Luigi Ciotti, il nostro fondatore, ci ha lasciato è praticamente ponti non muri. Questo ponti non muri può essere ovviamente un qualcosa di trasversale che può essere colto sia dal punto di vista della legalità sia dal punto di vista della connessione dei territori. Dicevi bene quando parlavi del nostro appellativo del nostro modo di essere visti dal, diciamo, nel nostro momento storico in cui siamo stati noi ad emigrare. In America eravamo visti come ovviamente la mafia, e ora vedere popoli visti in Italia in maniera differente, ovviamente da italiano deve per forza darti fastidio, deve per forza darti quella forza di impegno, quella volontà di volersi mettere in gioco per poter dire che è semplicemente un modo di vedere, ma ne esistono tanti. L'impegno di Libera sui territori parte un po' dal principio di riutilizzo dei beni confiscati, che più volte sono stati utilizzati proprio per trasmettere il messaggio che si può fare. Non per ultimo possiamo ricordare i nostri amici di NCO, i nostri amici del Casertano, perché è sempre particolare dire i miei amici di Casal di Principe, però è vero, ce li ho, e loro sono quelli del lato giusto, quelli dell'NCO, cioè nel senso non Nuova Camorra Organizzata, ma Nuova Cooperazione Organizzata. E penso che è importante ed è soprattutto necessario impegnarsi per poter rigirare i nostri spot negativi. Angelo, grazie, sì, salutiamo Tonino chiaramente, e vi ringraziamo tutti voi di Libera per l'impegno costante nel costruire ponti, che anche nell'apertura di spazi, nella riappropriazione di spazi confiscati, anche in quei punti si ricrea comunità, si ricreano dei ponti, quindi grazie di cuore davvero per l'impegno e la presenza. Grazie. Ci aspettiamo insieme il 9 giugno. per la grande festa dei popoli, undicesimo anno, eh! Mi raccomando, ben preparati, grazie, grazie all'assessore Falcone, grazie all'ufficio Migrantes. Ragazzi, rimanete con noi, magari ci apriamo, perché così abbiamo dato quasi sempre le spalle ad una fetta di pubblico, e chiederei ad Antonio Bonifacio di affiancarmi in questo momento. Io mi sento semplicemente di aggiungere un altro elemento, colgo l'assist dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Salerno, e con l'assessore Falcone stiamo avviando e avvieremo tanti bei ragionamenti sulle pari opportunità. E io, da vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania, chiedo all'Ufficio Migrantes di ampliare questa iniziativa e, perché no, di mettere in piedi anche un progetto regionale. E quindi magari lo farò portavoce in commissione al prossimo incontro che avremo, e poniamo al centro innanzitutto le persone in quanto tali. Questa sera ne abbiamo avuto una dimostrazione. Siamo al momento dei saluti. Cominciamo. Antonio, cominci tu o vado io con scaletta? Vai tu. Allora, giusto qualche premessa. Allora, ecco, il nostro pensiero va a Monsignor Moretti, vescovo di Salerno Campania Cerno, perché questa esperienza la facciamo come arcidiocesi, e lui ci ha sempre accompagnato e rimarrà quindi nei nostri cuori, anche se poi rimane a Salerno. Quindi come chiesa noi abbiamo scelto la parola accoglienza con il nostro cammino, e quindi perseguiamo questo sentiero. Quindi il mio doveroso ringraziamento e pensiero va all'arcidiocesi e a Monsignor Moretti. E quindi voglio ringraziare un po' di persone che ho visto questa sera e che ci accompagnano. A proposito di regionale, saluto Padre Paolo della Cappellania Etnica dei Cinesi in Italia, e speriamo che lo vedremo qui a Salerno con tutta la sua comunità. È una sfida che gli lanciamo e che noi speriamo di vincere. Poi voglio salutare il dottor Florivia Francesco, presidente delle Grotte di Pertosa, che ecco, ogni anno ci ospita per la festa dei popoli in tour, quindi che facciamo a Pertosa. Voglio ringraziare l'avvocato D'Urso dell'associazione Rossetti, che a Cava 20 anni fa iniziò questa festa dei popoli a cui noi ci siamo ispirati. Voglio ringraziare la dottoressa Paola De Roberto come presidente della commissione paleo politiche sociali del Comune di Salerno, che anche lei ecco, ci accompagna in questo cammino. Inoltre voglio ringraziare, scusate se mi dilungo, ma manco, gli amici sono tanti che ci accompagnano, non siamo soli. Ovviamente il legato saveriano, che insieme ai missionari saveriani è tra gli organizzatori e i promotori di questa esperienza. Voglio ringraziare le diocesi, che quest'anno ci ha fatto, sì, fatto vivere un'esperienza di racconto delle comunità, quindi nella persona di Peppe Pantugliano. Voglio ringraziare poi ecco, i stranieri d'Italia, che c'è la web radio che sta trasmettendo in diretta sul web l'evento, che è un primo incontro, speriamo di continuare. Voglio ringraziare ecco, amici comuni come Marco Colucci, che sta facendo le riprese video, Sabrina, che ha truccato un po' le nostre ragazze, Eugenio Mastrovito, che ha curato il video delle comunità con tanta passione e impegno. E inoltre ecco, saluto con grande affetto Don Pasquale, direttore del Centro Missionario Diocesano, che è tra i promotori della festa dei popoli. Ovviamente ringrazio anche il service, che con tanta pazienza ci segue, perché cambiamo scaletta, cambiamo pensieri, quindi ringrazio per la pazienza e l'MTV di Cittadella. Inoltre ringrazio la Fondazione Comunità Sanitaria perché ci ha supportato in questa manifestazione. Oggi non è semplice fare eventi che partono dal basso, eventi che non hanno grandi, anzi che non hanno finanziamenti, perché per scelta ci basiamo sulle nostre forze, e quindi ecco, avere delle persone che credono in questo progetto è importante. Inoltre ecco, ringraziamo anche la Banca di Credito Cooperativo di Montepruno, non è potuto essere presente, ma gli faremo avere i nostri saluti. E finisco. Ringrazio ecco, l'associazione Stella Maris, che ovviamente ha collaborato in non credo Marcella, ma poi dove sia, e ringrazio ecco per Marcella. Inoltre ringrazio la stazione marittima per l'ospitalità, la pazienza, perché siamo venuti tante volte a fare sopralluoghi. Da questa mattina siamo qui a montare, a smontare, e quindi ecco, voglio ringraziare loro, in particolare Livio, che finora ecco, è qui che ci attende alla fine, ma siamo stati costruiti. E consentirmi infine di ringraziare chi ha presentato questa serata, Concita De Luca. Ecco, quando abbiamo pensato a questa serata, degli abiti, dei vestiti, eleganza, abbiamo pensato subito a lei che ci poteva accompagnare in questo percorso. Lei si è resa disponibile, contenta di questa collaborazione, quindi ecco, la ringraziamo per la sua professionalità, la sua esperienza, che ci ha aiutato e guidato in questa, anche un po' serata confusa, ma comunque allegra e di pace. E un finito grazie. E un ringraziamento va all'Istituto Alberghiero Roberto Virtuoso di Salerno, che ha aperto la serata con un momento di gusto, e un ringraziamento a quanti hanno scelto di condividere con noi questa prima edizione del premio Amico dei Popoli. Uniti nella diversità, sempre. Buonanotte a tutti, buon fine settimana e buona festa dei popoli. Eccoci, siamo arrivati quindi alla conclusione di questo lungo ma bellissimo evento. Io vi ringrazio per l'ascolto, e da Giulia Scalona al microfono, ai suoni di Antonio Cortazzo e alla redazione di Michele Piastrella, è tutto da questa bellissima festa. Buona continuazione e a risentirci su Radio Antenna Migrante, www.stranierincampagna.it, e buonanotte a tutti. Ciao. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante, vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact, FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.